Intanto da questa mattina Genova sta rivivendo in una parte della sua città, proprio in pieno centro, in Piazza Marsala, una mini zona rossa che ricorda i tempi del G8 del 2001, con grate, cellulari, 300 uomini delle forze dell'ordine a chiudere la piazza dove si terrà alle 18 questo comizio di Casa Pound, che è sostanzialmente forse il primo presidio di impostazione neofascista dai famosi disordini del 1960, quando i portuali scesero in piazza. Per quanto riguarda il sindaco, quando gli è stato chiesto nei giorni scorsi, lui si è limitato a dire: non dipende da me, e questo è senz'altro vero, perché dipende dalla forza, dal questore, dalla prefettura. È vero altrettanto però che Bucci non si è minimamente espresso su cosa pensasse lui di questa situazione, e come sempre quando si tratta di materia di fascismo e antifascismo il sindaco di Genova svicola, perché ritiene questi argomenti divisivi. Certo, tra l'altro quello del tema della divisività dell'antifascismo è un tema che abbiamo già sentito qualche volta. Ti chiederei a questo punto, tu introducevi già il fatto che c'è una zona rossa, c'è anche un presidio che si sta formando in questi momenti in piazza Corvetto. Ti chiederei un po' come sarà organizzata la giornata, come è stata organizzata, diciamo, dalla parte dei movimenti antifascisti. Certo. Certo, beh, dunque la contromanifestazione antifascista è già in atto da oltre una mezz'ora e si trova proprio davanti alla prefettura in via Roma, che dista dalla piazza dove invece ci sarà il comizio di Casa Pound circa 200 metri, forse meno, quindi potete immaginarvi spazi ravvicinatissimi. C'è particolare tensione perché, anche se il presidio antifascista è stato indetto da associazioni assolutamente pacifiche come AMPI, i partigiani, l'ARCI, la CGL, la comunità di San Benedetto al Porto, che è la comunità fondata da Don Andrea Gallo, ci sarà comunque un'ala più agguerrita di giovani antifascisti che potrebbe poi tentare comunque qualche avvicinamento alla piazza di Casa Pound. Quindi c'è una forte tensione. La piazza, ci sono già diverse centinaia di persone nel presidio antifascista. A Casa Pound si prevedono poche decine di persone ultra blindate, ultra protette dalle forze dell'ordine, che temono appunto possibili contatti con frange degli antifascisti. Certo, ti chiederei un po' anche nel dibattito pubblico, al di là delle posizioni espresse dal sindaco Bucci, come ci sei arrivati un po' anche a questa giornata? Beh, guardate, questo è forse un punto di arrivo dopo un paio d'anni in cui Genova, che era storicamente una città di sinistra, è l'unica città italiana al medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, perché si liberò da sola dai nazifascisti, quindi una storia particolare con i suoi martiri, con le sue tradizioni legate alla resistenza, quando sia la regione che il comune sono passate nelle mani del centrodestra, di questo centrodestra, ha iniziato un pochettino a vedere sfaldarsi quelli che erano i suoi capisaldi morali, nel senso, gli esponenti leghisti che sono al governo a Genova hanno manifestato pubblicamente e ci sono stati poi alcune imbarazzanti manifestazioni pubbliche sui social, insomma una vicinanza con gli ambienti dell'ultradestra, della destra neofascista, e con le classiche stupidaggini da social, cioè i like o i post di simpatia a Mussolini o ai fascisti del ventennio. Insomma, al di là di queste manifestazioni c'è comunque una vicinanza tra alcuni esponenti leghisti di questa giunta e l'ultradestra. Lentamente in questi mesi abbiamo visto aprire a Genova sedi di Lealtà Azione, poi di Casa Pound, il rafforzarsi di Forza Nuova, e oggi questa è il primo comizio pubblico in piazza. Finora Casa Pound si era riunita in spazi chiusi, quindi è sicuramente un'escalation ulteriore in questo clima, che coincide peraltro con una giunta che emana delle ordinanze fortemente limitative delle libertà e dei diritti di chi? Degli ultimi, dei clochard, degli emarginati, e insomma tutto questo viene vissuto non tanto come una lesione ai diritti, non solo ai diritti della resistenza, ai valori, ma ai diritti attuali delle persone, soprattutto delle fasce più deboli. Ti faccio una domanda, non so, sinceramente non ho visto se avevate pubblicato qualcosa in questo senso, se voi vi siete fatti un'idea anche di quale sia il costo del costruire la zona rossa, del murare così questa piazza per concederla, diciamo, a Casa Pound, nel senso che lunedì, quando c'è stato un caso simile a Bologna, in molti ci siamo chiesti questa cosa, visto che appunto c'è stato anche un elicottero per ore, quindi di quale quantitativamente di quale possa essere anche un po' il costo. Guarda, naturalmente è sempre difficile fare un costo, è evidente che c'è un costo aggiuntivo di diverse decine di migliaia di euro, perché poi ci sono comunque tutti gli straordinari di poliziotti, carabinieri, finanzieri che dall'alba sono in servizio e che smonteranno soltanto a ora tarda quando non ci saranno più problemi. Credo che però, al di là del costo, che giustamente uno Stato non deve chiedersi forse il costo quando c'è da garantire una situazione di ordine pubblico, il problema qui è delle autorità che hanno deciso di concedere una piazza così centrale in una zona così simbolica di Genova comunque a un gruppo che non solo non rinnega ma sostiene la sua anima fascista.